al nonino piace il ritmo, ma la nonna non lo vuol sentire. La vecchietta non sa più che dire, questa musica la fa impazzire. Mentre al nonno il sincopato mette un fremito di gioventù, e da allora non resiste più, batte il piede e tiene il dito in su. Ha quasi 90 anni, ma sentite che vuol far, malgrado i suoi affanni, boogie woogie vuole ballar. Al nonino piace il ritmo, ma la nonna non lo vuol sentire. Poveretta, lei non sa capire questa musica dei nostri dì, e rimpiange i tempi della gioventù.